versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, vi dico subito qual è l'argomento della puntata, perché i fedeli ascoltatori della radio miei personali sanno che ogni anno per Sant'Ambrogio, qui ti aspettiamo da Milano, siamo vissuti di Milano, ovviamente vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto diretto in podcast, noi approfittiamo, cioè ogni anno chiediamo, poi bisogna vedere se lo otteniamo, ma chiediamo all'arcivescovo di Milano, cardinale sua eminenza Angelo Scola, in questi anni di compartecipare ai nostri microfoni la riflessione pubblica, una di quelle di maggior rilievo che fa nell'arco dell'anno, in occasione dell'ordinazione di Sant'Ambrogio vescovo dottore della Chiesa, che è patrono della Chiesa di Milano. C'è questa lettera pastorale, di solito su tutti gli anni, non di solito, su temi impegnativi della vita civile, pubblica e così via, ed è diventata, voglio dire, una buona abitudine per me, e io devo dire che anche quest'anno devo ringraziare Sua Eminenza l'Arcivescovo di Milano per averci dato la disponibilità a parlare con noi del testo che è pronunciato appunto in occasione dei primi vespri della solennità, cioè quelli che c'erano il martedì 6 dicembre alle 18. Quindi innanzitutto grazie Eminenza di essere con noi. Grazie a lei dell'invito abituale e un saluto caro a tutti gli ascoltatori. Allora, lei in questo testo quest'anno parla di un tema che in realtà è vivissimo nel dibattito pubblico italiano, perché l'Europa, e siccome lei lo sa che viviamo da anni, ed è di questo che si occupa il testo, in una crisi di credibilità agli occhi dell'opinione pubblica crescente del processo di evoluzione istituzionale europea, anzi B, delusione motivata, perché nei sondaggi è evidente che così, nei voti popolari nei diversi paesi è sempre più così. Allora, lei prende il tema di petto e nella lettera, dopo una ricostruzione dell'evoluzione del istituzionale dell'Europa, dall'idea fondante del pace e valori al trionfo dell'economia, per così dire, e dice qui diventa, non è più un fine di valore così, la parola Europa è finito per diventare uno strumento tecnico, e di qui c'è un grande problema, per così dire. Ecco, siccome, ripeto, a me ha molto colpito, perché è una delle maggiori trasformazioni che si coglie anche all'ascoltatori nostri. Gli ascoltatori nostri ormai, quando gli dice Europa euro, quasi tutti dicono è l'origine dei nostri guai. Posso chiederle di dire ai nostri ascoltatori come su questo lei si pronuncia? Ah, dunque, io ho voluto inserire questa visione, questo mio giudizio attuale sull'Europa, sulla realtà, a partire dalla realtà milanese, no? Tant'è vero che ho intitolato il testo Milano e il futuro dell'Europa. Io vedo una realtà milanese in effettivo rinascimento. Problemi ci sono, si mantengono delle contraddizioni pesanti dal punto di vista di un certo dominio della cultura dello scarto, della situazione della casa, del problema del lavoro, eccetera, eccetera. Tuttavia è innegabile che chi vive a Milano, ha vissuto a Milano almeno negli ultimi 5 anni, ha visto progressivamente un risorgimento. Allora mi sono domandato, siccome Milano è la città di mezzo, è al cuore dell'Europa, cosa può dire a un'Europa che è stata definita, con un'espressione forse un po' dura ma realistica, società della stanchezza, questo risorgimento milanese? E ovviamente ho dovuto con questo riconoscere quel che lei ha detto, cioè vale a dire che dopo un inizio veramente geniale dell'Europa con la ceca, a partire dai tre grandi Schumann, Adenauer e De Gasperi, progressivamente ci fu dapprima una fase in cui la politica cercò in un certo senso di dare un senso compiuto al cammino del continente, ma per finire ciò che è emerso è un'Europa come strumento finanziario, economico, tecnocratico e burocratico in vista di una concezione di sviluppo che è totalmente avulsa da una maturazione dell'esperienza della cittadinanza europea e soprattutto dell'esperienza della comunità. Quindi io vedo un'Europa in declino, in evidente declino, e se si possono trovare molte ragioni di questo, ma ve n'è una che è pesante secondo me, è che quando l'Europa ha sentito il bisogno di dilatare e di affermare la sua propria identità, si è dovuta affidare ad un diritto internazionale che l'ha trasformata in una sorta di organizzazione internazionale, facendo perdere ogni tentativo di immaginare quale dovesse essere il fattore unificante dell'Europa stessa, quanta sovranità gli Stati avrebbero dovuto cedere, ma soprattutto in favore di che cosa, se l'Europa dovesse essere una federazione, se dovesse essere una unione in senso più profondo. Tutti temi che sono addirittura caduti, che non, di cui nessuno sostanzialmente quasi parla più. Quindi io spero che da una realtà come Milano, ovviamente non in solitudine, possa ripartire un pensiero sull'Europa. Poi noi possiamo trovare, come dicono i francesi, una raison d'être per questo continente che resta secondo me decisiva per tutta la scena mondiale che si va creando. Allora, io devo dire che condivido molto l'impostazione che magari i nostri ascoltatori dicono: ah, adesso ci dite che Milano va bene, mentre no, ci sono degli tanti indicatori concreti che la sua eminenza richiama nella prima parte della lettera, e tanti altri ce ne sono ancora che testimoniano. Io vi cito solo un dato, cari ascoltatori, per esempio, siccome uno dei coefficienti di declino, ohimè, più evidente da molti anni nel nostro paese rispetto anche ad altre parti d'Europa, è per esempio quello demografico, perché abbiamo un ambiente giuridico, fiscale, cioè un po' ostile ai giovani e alla famiglia. Allora, pensate che Milano esatto, attira non solo in maniera crescente capitale umano giovane, cioè studenti dal resto d'Italia e dagli altri paesi che vengono a formarsi qua, sono più di 200.000 sono meno gli studenti, ma ha un aumento, nel 2015 è stato registrato un aumento di giovani residenti che nelle grandi città italiane è il più alto rispetto a tutti gli altri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto solo il fatto che ci siano, come eccezione in Italia, più giovani qui che altro che vengono qui, vuol dire che sono occasioni, significa che c'è un segno di un mix che è fatto di cultura, impresa, manifattura, servizi, grandissima solidarietà, terzo settore, 180.000 volontari, cioè stiamo parlando di un modello che non è che dice da lezioni, però queste cose ci sono. Io vengo allo sviluppo successivo, eminenza, che c'è dopo il giudizio che lei dà nel testo sull'Europa e che qui ci ha richiamato, perché a un certo punto si va appunto, qual è il contributo che l'identità cristiana ha dato all'Europa? È un valore fondante, ci ricordiamo tutti che ai tempi della costruzione europea la polemica che poi avvenne, però ci sono c'è un principio che a me ha molto colpito, dice: siccome uno dei fattori che fa esplodere la crisi, le tensioni, le insoddisfazioni di chi ha meno reddito anche in Italia è proprio l'immigrazione, e qui c'è una questione anche sul policulturalismo, su il problema con l'Islam, lei dice: l'Islam testuale, con la sua forma di vita estremamente semplice e chiara per tutti, rappresenta per esempio una sfida da non lasciar cadere. Dall'altra parte, il progressivo sfumare nella società dell'esistenza cristiana in forma via via più secolarizzata pone problemi che domandano una fede ben ancorata alla mentalità e ai sentimenti di Cristo. E dice qui il problema, però, visto che l'Islam è netto, è chiaro, mentre noi siamo tornati a un tempo in cui il cristianesimo è quasi una cosa come i tempi di San Paolo, cioè un po' rischiosa e di minoranza, una controcultura. Allora lei dice: qui il problema è, per realizzare un'armonia, una convivenza che non sia conflittuale ed esplosiva, come molti l'avvertono, dice, è necessario il riconoscimento pratico dei beni da condividere. Cosa vuol dire? Ah, vuol dire, questa è un'idea che ebbe Marie Ten nel suo discorso all'UNESCO nel 1947. Quando tutti cercavano di mettersi intorno al tavolo per formare la teoria giusta sulle quali tutti avrebbero dovuto convergere, lui disse: guardate che se andiamo avanti così, siamo qui a discutere per anni, non arriviamo da nessuna parte. Partiamo da un dato di fatto: abbiamo mondovisioni diverse, abbiamo visioni diverse di cos'è l'uomo, di cos'è l'amore, di cos'è la vita, di cos'è la morte, però c'è un dato di fatto elementare, sociale: siamo costretti a vivere insieme. Allora trasformiamo questo dato di fatto sociale in una scelta politica e costruiamo insieme con intelligenza quei fattori che ci permettono un riconoscimento reciproco tra realtà diverse, un gusto della narrazione, un gusto della proposta, così che si possa realizzare quell'amicizia civica di cui parlava Aristotele, che consente anche a una società plurale come la nostra, che è tendenzialmente conflittuale, di trovare la strada di una unità per una vita buona, che tenga conto, rispetti fino in fondo i diritti fondamentali di tutti, ivi compreso il diritto della libertà di coscienza, ma che tenti una edificazione. Guardi, devo dire che ancora, non per tornare a Milano, non per sciovinismo, ma abbiamo lanciato con Cacciari questi dialoghi di vita buona, invitando una quarantina di personalità di diverse visioni, eccetera, a discutere su problemi. Per esempio, l'ultima volta al Piccolo Teatro abbiamo discusso di naturale, artificiale, a partire dalle neuroscienze. Io sono rimasto veramente molto positivamente colpito, prima di tutto dalla disponibilità di tutti gli invitati a venire, e la cerchia si sta allargando. In secondo luogo, della costruttività di un ascolto che si lascia veramente fecondare anche a partire da posizioni diverse, non per tendere a un sincretismo, ma proprio per realizzare quel bene pratico sociale del fatto che dobbiamo vivere insieme, e che quindi è bene farlo con una vita il più possibile buona. Però, se andiamo a vedere anche a Milano, in questo caso, quando si tratta di tradurre questa formula, cioè identificare bene un bene sociale pratico primario del vivere insieme, riprendo la formula, e la si tenta di applicare a moschea, quanto una centralizzata, tante decentrate, come sono le diverse associazioni di culto islamico in Italia. Noi non abbiamo una rappresentanza unica, qui questo è un bel problemino per averci a che fare. Sì, certo, ecco. Come si traduce? Perché anche a Milano la formula non si è trovata. No, non si è trovata. Ecco, qui bisognerebbe sentire, almeno io penso ai responsabili per il dialogo con l'Islam della nostra diocesi, e soprattutto la realtà del centro Oasis, che ha studiato e studia regolarmente, attentamente, questi problemi. Anzitutto esiste una certa questione di litigiosità all'interno del mondo islamico. Non lo dico con spirito polemico, perché riflette la situazione tragica in cui lo scontro tra sunniti e sciiti si sta realizzando, con le implicazioni evidentemente indirette del terrorismo, del fondamentalismo, eccetera. In secondo luogo, esiste ancora un enorme problema di educazione di tutti i cittadini milanesi al valore profondo e alle possibilità reali di un'accoglienza che sia differenziata secondo dei soggetti che la devono produrre. Noi Chiesa siamo come il buon samaritano, la gente arriva sulla costa, diamo una prima mano, ma non tocca a noi una politica equilibrata dell'immigrazione, e questa deve essere fatta dalle autorità istituzionali europee. Il fatto che non riescono a farla è un sintomo molto grave della stanchezza e della fatica dell'Europa. Io ho ripetuto già da un paio d'anni che ci vorrebbe una sorta di piano Marshall complessivo, che partisse dai paesi da cui questa gente viene e arrivasse fino a coinvolgere tutte le nostre realtà occidentali, che sono ancora comunque al di là dei problemi dei giovani, della disoccupazione, dello scarto, eccetera, comunque sono ancora società ricche. La pratica dell'accoglienza diffusa che noi abbiamo favorito sul territorio, 4-5 persone in ogni parrocchia, in ogni piccolo paese, ha trovato delle risposte che mi hanno veramente colpito, sorpreso. Ha trovato gente che ha preso in casa propria degli immigrati che erano, fino a quando sono giunti, sconosciuti. Totalmente sconosciuti. Allora, scusami, Eminenza, adesso abbiamo un minuto di informazione sul traffico e poi torniamo con l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati con Sua Eminenza l'Arcivescovo di Milano, Angelo Scola. L'occasione è il testo, Milano il futuro dell'Europa, della riflessione che l'Arcivescovo di Milano svolge rivolgendosi a tutti i milanesi e a tutti coloro che operano, vivono nella diocesi di Milano, che è una delle più grande in Italia, oltre che ovviamente a essere un'usta di memorie storiche, per così dire, per la storia del cristianesimo nel nostro paese. Però detto questo, questo testo quest'anno è su Milano, il futuro dell'Europa. Abbiamo visto il giudizio iniziale sull'importanza dei segnali che vengono da Milano rispetto a tutta Italia e la crisi della fiducia dello sviluppo europeo, non più sui valori, ma che diventa uno strumento, non più un fine per alcuni valori, nei fattori del declino. Alcuni problemi che riguardano poi le grandi crisi scatenate in questi anni, cioè quella politica, ma soprattutto poi quella finanziaria, quella, la tragedia dell'immigrazione. Siamo passati attraverso un giudizio sull'Islam e questa necessità di dover identificare un bene sociale comune, una specie di terreno condiviso, ed eravamo arrivati al punto delle moschee e della risposta che attraverso la Chiesa italiana è venuta anche dai fedeli italiani per l'accoglienza da questo punto di vista. Io faccio una domanda esplicita a Sua Eminenza Scola. Lei è convinto che le chiese europee, le chiese, io non parlo solo della Chiesa cattolica, le chiese europee abbiano fatto abbastanza di fronte alla cosa che dall'estate 2015, quando parlò la Merkel, ha travolto l'Europa, perché evidentemente non eravamo pronti a flussi di milioni? No, certo, non abbiamo ancora fatto abbastanza, non abbiamo fatto poco in maniera differenziata nei diversi paesi europei. Perché anche questo bisogna dire, perché anche all'interno degli organismi unitari delle chiese cattoliche e comunque delle altre comunità religiose le tensioni non sono poche, spesso rispecchiano la situazione e la posizione dei diversi paesi europei. Possiamo fare, secondo me, molto di più per l'accoglienza, però, come dicevo, al di là dello slancio che normalmente l'uomo religioso ha, e io vedo nella nostra diocesi, quando si parla di razzismo eccetera, a mio parere si usa un termine che è improprio, c'è una grande paura che ha bisogno di educazione, che ha bisogno di conoscenza diretta, che ha bisogno di uomini responsabili e seri che operino una mediazione, ma manca una politica. Le politiche che abbiamo messo in campo su questo problema sono solo politiche di contenimento, ecco. Non sono politiche che hanno prospettiva. Ecco perché io uso questa espressione che adesso ho visto ripresa da taluni altri sul piano Marshall, come per dire ci vuole qualcosa di organicamente pensato, anche con un investimento economico che sia adeguato, ovviamente che non deve danneggiare la situazione di crisi in cui anche noi versiamo dal punto di vista del lavoro giovanile, dal punto di vista di chi di mezza età perde il lavoro, eccetera. Però non si vede nell'Europa un soggetto che equilibratamente affronti questo dato. Tra l'altro questo è un problema che va oltre l'Europa, perché noi sappiamo che sono quasi 200 milioni nel mondo quelli che si stanno spostando in questo momento. Pensiamo al problema degli Stati Uniti con Messico, per fare un esempio. Quindi io credo che il lavoro da fare è ancora molto, ma basta citare un dato. Il Libano, 3 milioni e mezzo di abitanti, 1 milione e mezzo di immigrati siriani sono ospitati nel Libano, ovviamente con esigenze logistico-tecniche differenti, è chiaro, lì non si prescinde dalle tende, il clima lo permette, ci sono tanti fattori che andrebbero visti, però se noi non sappiamo fare questo lavoro, io credo che l'Europa non si risolleverà. Io ho parlato già anni fa di meticciato di culture, ma il meticciato sarà più che un meticciato di culture, sarà anche un meticciato biologico, perché lei lo sa, Eminenza, che quando lei parlò di meticciato, come sempre quando voci sono autorevoli, no, per trattare questo tema usando termini così, c'è chi ha una reazione, e cioè dice: ecco, questa è la parte della Chiesa che non capisce che questi ci stanno attaccando. Sì, conosco bene. E che rispondiamo ancora una volta a chi fa questa obiezione. Ma chi fa questa obiezione, secondo me, non è realista. Beh, anzitutto attribuisce in questo caso a me una concezione di identità che io non possiedo, perché l'identità o è dinamica o non è. Noi siamo uomini della storia, siamo figli di un Dio che si è incarnato, che si è giocato e si gioca con noi nella storia. Quindi l'identità non può diventare un fossile, l'identità è quella possibilità che il mio volto certo personale, a cui io tengo perché voglio giungere ad un compimento, si giochi e si arricchisca nei confronti con l'altro. E qui tocchiamo quella che è, secondo me, una delle malattie più profonde dell'Europa, che non è più, che io non definisco più soltanto come un individualismo, ma come una perdita nel senso della relazione, che sta raggiungendo un livello di autismo spirituale. Per cui ognuno di noi vive, l'ha detto il Papa questo, vive come una monade. Una monade, sì. E non riesce a stare in relazione con gli altri in termini amorosi di costruzione e di affermazione del bene altrui, in una capacità di ascolto profondo, come un andare tutti insieme verso il senso della realtà che spesse volte ci sfugge, che domanda tempo. Quindi non esiste un'identità che non sia dinamica e non esiste un'identità che non vada all'incontro dell'altro, perché un'identità simile è sempre destinata a perdere, tra l'altro, e finisce involontariamente per provocare da una parte e dall'altra forme di violenza legate all'egemonia, ancor peggio all'utopia, che, per la quale sulla base di idee astratte si pretende di risolvere problemi concreti. Qui bisogna rimboccarsi le maniche e chiedere a ciascuno di fare il proprio. Dico a chi è in ascolto, leggete il testo, c'è uno dei paragrafi finali che dice: un cristianesimo della libertà di coscienza. L'equilibrio con cui si tratta il tema della libertà di coscienza, che nel nostro ordinamento pubblico, nel mondo occidentale, nel mondo dell'individualismo esasperato, spesso in realtà viene totalmente calpestato, questo è il problema. È vero. Lo fa con un equilibrio per cui anche chi si pone problemi, come c'è scritto qui, dell'equilibrio tra diritti e doveri, perché non bisogna mai dimenticarcelo che questo è il fondamento per una libertà organizzata, io ringrazio Sua Eminenza Scola per continuare a battersi anche per la libertà mia e di voi tutti. Grazie, Eminenza.